ragazzina chi sei, tu che arrivi alle sei e ti siedi davanti al tramonto, e perché vieni qui sola sola così e ti fermi mezz'ora soltanto. Tu amici non hai, a ballare non vai, né a passeggio con gli altri nei viali. Dai, confessalo, dai, il complesso che hai, tu sei una che porta gli occhiali. Ragazzina, non sai che quei vetri che hai un'arietta straniera ti danno. Sembri inglese anche tu, e le inglesi qua giù vanno tanto di moda quest'anno. Ridi, ridi se vuoi, ma ti ha detto fra noi, io le altre le trovo banali. Ho un segreto pur io, sono mio che anch'io, dai facciamo cin cin con gli occhiali. Cin cin dai, noi siamo speciali, portiamo gli occhiali, dai vieni con noi. Cin cin dai, il mondo è di tutti, dei belli e dei brutti, è il nostro noi. Prova a togliere un po' quegli occhiali che hai, che vedrai tutto un mondo a colori. E perfino sui tram le più brutte reclame sembreranno dei mazzi di fiori. Ragazzina, lo sai, dietro ai vetri che hai c'è uno sguardo che mette le ali. Se un sorriso mi fai e un bacio mi dai, noi faremo cin cin con gli occhiali.